Quindi nada, nada. Lo so che sei in macchina. Si sente, si sente. Ciao Gianni, ciao, buona serata. Mi stavo facendo una cosettina, non più lunga, stavo facendo, adesso ho terminato, dai. Dunque, una più lunga per mia madre, dai, una più lunga per la lavatrice, che è quella che aveva, gli si era rotta, anche perché era troppo sottile, gliel'aveva fatta mio fratello che non ne capisce niente di elettricità, per cui adesso ho comprato il filo adeguato e la presa volante e la spina giusta per poter appunto fare la pluga come si deve. Dipende Gianni, con la buonasera. Sì, benissimo, ti ascolto benissimo, Santiago 7 e la radio 5 è perfetta, è anche abbastanza forte. Dimmi intanto se la mia radio è chiara o se sto strappando. È appunto interrogativo. L'azienda che hai comprato qual è? La Siria 827? Sicuramente è una 5 ottavi anche quella, per cui no, io ho la Mantova Turbo, però in questo momento l'ho messa sdraiata per terra, l'ho smontata in poche parole, no? E per una serie di motivi, la notte quando soffiava vento faceva un rumore del diavolo e mi disturbava la verità, allora l'ho tirata giù e ho fatto un dipolo in verticale, ho fatto tipo Game Master, dai, più o meno, per cui autocostruito. E va bene, lungo 7 metri, con una canna da pesca, anzi a dire la verità ho fatto una combinazione di spezzoni che avevo per come canna da pesca, no, avevo una serie di spezzoni e li ho messi insieme ed è venuta fuori in pratica l'antenna uguale a quella Sirio, quella della Game Master, capito? Ma va bene, però è bassa, molto bassa, non è alta come ce l'avevo prima ce l'avevo a roba di 6 metri dal tetto, adesso è a livello di pavimento praticamente, perché c'è un terrazzo adesso, non è montata nello stesso posto, ma vedo che va bene. In quest'estate ho parlato anche col continente, anche con le nazioni straniere, tipo Germania, Portogallo, Spagna, eccetera. Va bene, prende poco vento, va bene così, è leggera, non si fermano i volatili sopra, non si possono mettere perché è uno stivo solamente, capito già? sì, beh, certo, quello sì. Io in quanto a quello io non ho nessuna voglia di studiare, per cui non mi interessa, rimango civista anche perché non voglio mettere tutte le antenne sul tetto, no, non mi piace. Se non l'avrei fatto già da anni, poi ormai io ho una certa età, per cui chi me lo fa fare a mettermi in testa il problema dello studio, di queste cose, ma non ci penso nemmeno, anche se senza nessuna presunzione devo dire che sono in parecchie cose preparato, per cui mi basterebbe grosso modo una bella ripassatina sui libri per poter poi presentarmi a fare l'esame, però non ci tengo, è la verità. Poi tornando al discorso radio, mi stai dicendo Santiago Radio 4, ma se io aumento appena voi li aspetta, questo come la radio, più forte adesso è. utilizzato solo quando esce e basta. Però sta libero, se il cane ce l'ha a casa deve stare libero, deve... Il mio va piccolino, abituato, guarda, è un bambino, è come che non ci sia. Ragazzo, il cane non va bene, deve essere cattivo, e... no, assolutamente, deve essere socievole con tutti. Comunque stai attento perché se si attorciglia è un casino, ci sono quei moschettoni a carrello, mettili quelli e fai un bel lavoro, se devi tenere il gatto, capito? Niente, vabbè, aspettavo una tua chiamata per vedere, per darmi notizie di quella radio, però gliela voglio dare a quello lì, capito? Non, non mi interessa dargliela, preferisco darla a qualche un altro, non è roba mia, però è come che sia mia, perché hai detto fai tu, dalla ti vuoi tu, quindi avrei preferito darla a te, capito? Tutto qua. Avanti Giulio. Ok, sì, beh, certo. Una delle cose, io in quanto a come si tratta gli animali non ne so niente, non ne ho mai avuto, per cui il cane, però parto sempre dall'idea che se uno lo prende lo deve tenere bene, come un figlio, perché se no non va bene, se no stato male lasciando anche per conto suo parlando il randaggio, ma se uno se lo prende il cane lo deve trattare bene, curarlo, lavarlo, dargli i cibi adatti a lui, le medicine quando corrono, tutte queste cose, ci mancherebbe altro, perché se no sarebbe una cosa disumana, cioè un uomo deve prendere il cane e lo deve trattare come si tratta un figlio, o quasi, dai, tutto lì. No, stavo facendo una prolunga per mia madre, l'altro giorno mi ha chiamato, mi dice giù, non mi funziona la lavatrice. Sono andato su, avevo un problema nella, siccome ha una piccola prolunga, no? Perché dove c'è la lavatrice l'ha presa un po' lontana. E questa presa aveva le spine di quelle che non sono omologate. Io oggi le ho comprate, ho preso il cavo giusto come si deve, quello grosso, non quello sottile che scalda, se no la lavatrice ha un carico non indifferente, sono dai 1500-1700 watt, per cui ci vuole il cavo di una sezione adatta. Adesso gliel'ho fatto, lo volevo tirare della posto. Così la vecchietta è contenta. 95 anni a corso, a... no, 96 a gennaio, per cui vedi bene, qua. Grazie a Dio, già ancora buona salute, dai, per i primi. Sì, grazie a Dio, già 95 anni, già ancora va bene. Gappa. No, hai fatto bene a cambiarglielo, perché quei cavi fini scaldano, poi si brucia la brisa ed è peggio, quasi casino, meglio fare le cose fatte bene. Gappa, riprendi o capri avanti. Thank you. che, beh certo, ripeto, un cane bisogna trattarlo bene, e fai bene ad avere tutte le attenzioni più inimmaginabili, certo. Va bene così, vediamo se è in ascolto Natalino, sì, in ascolto. Natalino non c'è. Marco? Sì, sono l'ascolto, dai. E allora presentati, dai. Ciao Marco, salutoni, stai pranzando? Non mi dire che ancora stai pranzando, anzi forse non è iniziato, avanti. No, ancora è presto. Quello che ti ho mandato il collegamento alla quella cena che ha CHP2. Capito? Se la scrivi antenne, ci sono tutte le spiegazioni, peggio, pesa 2,9 kg solo. È appena appena più pesante della mia. La mia è 2,5 kg e quella 2,9 kg. È di tipo leggero, però la Sirio fa antenne belle, dai. Antenne, buonasera a tutti comunque. Ciao Capri, ciao Claudio, ciao Giulio. Veramente bene. L'unico problema è che alle volte la parte elettrica si interrompe il fatto di essere cortocircuitata, però adesso l'ho messa a posto e non credo che adesso si possa fare più col difetto, assolutamente. Ripeto, l'ho svoltata, lo stilo l'ho lasciato intero, tutto lungo, l'ho sdraiato nel poggiolo, aspetta, lo stilo è 7 metri e io ho un poggiolo che è 8,50 m per ogni lato, per cui si sta comoda, comoda. Non me la fastidio, non me la frega niente, tanto è nel poggiolo di una strada, per cui non ci passa nessuno lì e va bene così. Ma la tengo, già, me la tengo, anche se me la dovessero chiedere, non ho nessunissima intenzione di prenderla. Mi prende qua. Sì, ti conviene tenerla, no? C'ho il ricambio per la mantova 1, c'ho il piantone, i radiali, c'ho tutto, che era praticamente la mantova 5, e ho recuperato tutta la parte buona, ce l'ho il ricambio, capito? Serve sempre, non si sa mai. E il vento di notte era bello forte, bello teso, no? Io ho dato un'occhiata così, è tutto al suo posto, tutto perfetto. Ho visto che non ha scarrellato neanche le direttive, nulla, quindi non era così potente. Avanti Marco. Ma qua non me ne sono nemmeno accorto le venti, sì, un po' di venti in cielo così, ma niente di che. Qua, quando è forte lo sento, perché fischia proprio tutto qua. Vabbè, tu sei molto in alto, quindi lo senti di più. Credo peggio, perché sulla nuova la protezione civile aveva dato un'allerta, com'era? Allerta, vento forte, quasi fino a 100 orari, ma 80 diceva, con punte di 100, io non ne ho visto vento così forte, forse a casa, non so, dalla verità. Guarda, c'era io, non ho mai travento il nodo. Forse le 4, 3, 4, forse anche le 5, quando mi sono svegliato io, ma non era più di 30 km orari, dai 27 ai 30, 32 toccato, cosa 80 km orari, 80 km orari, non mai fare di rampa, te ne fai Raiburi, vai Capri. mia Puglia, io lo stesso non ho pretese di grandi segnaloni, non me ne frega niente, ormai sono passati tanti anni che sto con questa frequenza, per cui va bene così, quando mi sento non mi va bene, non ho altre pretese, poi se non mi sentono pazienza, non ci posso fare niente, ripeto, io ho ripiegato proprio su questo di Polo, proprio per motivo lì. Intanto perché è leggera, poi c'ho la portata di mano nel terrazzo, non devo salire più sul tetto, premesso che io sul tetto avevo fatto la passerella giusta proprio per passarci, dunque non passerei mai sulle tegole, se per questo io sui muri perimetrali, essendo in adiacenza così a contatto con le altre case, in aderenza con le altre case, ho avuto quella possibilità, mi sono fatto la passerella sui muri perimetrali, dunque per le antenne io passavo sempre lì, senza bisogno di mettere mai i piedi sulle tegole. Però sempre la noia, ormai io ho una certa età, non voglio stare sempre salendo e scendendo, ma chi me la fa fare? Lì invece c'è necessità, apro la portata sana del terrazzo e la terra ce l'ho già a portata di mano, senza bisogno di andare a scavalcare, a fare, niente da fare. Così è, così rimane, e penso che non la piacerò più la matobatubo. Riprendi qua. Giulio? Sì, allora, chi è che mi chiama? Sì, al momento è... Ciao Giulio, fortunato. Sì, ho già detto. Ho sentito anche a Marco. Stavo tentando di chiamarlo, però c'era un amico. Non riesco a capire. Niente, sono andato per salutarmi, Giulio, riprendi. Oh, ciao fortunato, saluto, mi fa piacere, dai, per sentirti veramente, saluto, non ho stato di mano. Sì, sono in compagnia di Marco, Gianni da Muros, e poi anche da Claudio, che adesso ti mando avanti, poi ci salutano anche loro. Salutone ancora, una stretta di mano grande, fortunato, sempre un piacere ascoltarti. Vai Claudio, per il fortunato. Ehi, ciao Fortuna, buonasera, ben sentito. No, poi io se hai chiamato non ti ho sentito, evidentemente eri in zona diversa, non so, ma strano perché io ti accoppio sempre, capito? Va bene, ciao, buonasera, ben ascoltato. Comunque ti mando avanti il Capri 2, vediamo se riesci a ascoltarlo. Avanti il Capri. Grazie per essere andato a salutare, dai Giulio, ti ricorda sempre di te, saluto ancora, una stretta di mano, ciao Fortunato, grande, ti mando di nuovo avanti Claudio per i saluti, vai qua. Ciao Fortunato, un abbraccio e ci sentiamo alle prossime, quando vuoi siamo sempre qua, vai Marco. Ciao Fortunato, dai, buon lavoro. Sì, ho sentito qualcosa sotto Capri 2, mi pare. Il segnalino ogni tanto riprendeva, forse era lunga. Va bene, ciao Fortuna, buona serata. Le prendo io di nuovo, dunque. E mi sento, sto facendo un'altra cosettina, sempre materie lì. Un secondo per mangiare il cane. Marco, allora, a Natale non l'ho sentito io. Vai, dovrebbe venire a prendersi quella persona che le serve. Stasera le mando un mio, vado a Natale, Natale, ma se ti all'ascolto, ti muovi, io no. Avanti Marco. Eia, Natalino, sì. Sarà cuccato ancora. Ieri sera era intenzionato male, aveva una brutta intenzione, ha chiesto un consiglio, voleva sapere come doveva fare, che una persona non gli voleva dare quello che voleva lui, non lo so. Quando mai è ancora imparato in queste cose? Non lo so più. Bravi Gianni. ce l'ha. Poi erano venuti 20 grandi porti, cioè relativamente pochi, eppure la terna è sempre lì, non ha perso nessun radiale, eccetera. Comunque adesso te ne dico una, questa antenna che ho io è la New Energy 580. Prima di questa, 20 anni fa, no, più di 20 anni fa, esisteva la BA27S, praticamente era lo stesso identico progetto, che però aveva i radiali in fibra. Prima ancora esisteva la Mercury 27, Mercury, che praticamente era la stessa antenna. Insomma, questa antenna l'hanno rinnovata nei decenni, capito? Perché esiste già dagli anni 70, almeno credo, qua in Italia almeno, dico, in 46 anni di radio ho usato solamente tre antenne. Una era la Grand Prix all'inizio, proprio per alcuni anni avevo tenuto la Grand Prix della LEM, che aveva i radiali metà in fibra e metà in alluminio, e andava benissimo, ma veramente bene. Poi avevo preso la Stellar 8 radiali. E dunque quella, non 8 radiali, quanti erano? 16 radiali, non 8, 16 radiali. E quella l'ho tenuta una quarantina d'anni o anni. E devo dire che era veramente un'ottima antenna, tutta invecchiata, poi si era, ma funzionava sempre che a meraviglia. Mi sono preso da Malta da Turbo un anno e mezzo fa più o meno. Beh, e devo dire che ho avuto due volte problemi, adesso che funzionava sempre. Il problema consisteva nel fatto che l'antenna la vendono cortocircuitata, invece dopo un po' di tempo perdeva quella funzione lì, e a me non mi andava, se è nata cortocircuitata io devo continuare ad usarla cortocircuitata. Però ripeto, funzionava a meraviglia, niente stazionari e tutto, andava benissimo. Mi sono staccato, il problema era il rumore. Durante la notte dell'inverno, quando c'è molto vento, fischiava che era una meraviglia. Dunque mi dava fastidio, a me personalmente. E allora per quello l'ho tirata giù. E l'ho rimessa da una parte, così come stava la parte oggi anni. Riprendi Gianni. Apprezzabile la modulazione, se va bene, dai. Riprendi Giulia, fai girare. Ok, qua. Fabio, Fabio, è ultima. Guarda, non ti voglio dire che è più bella di qua e là, per non offendere il K, però devo dirti che allora sai che è più bella dell'altra. E te la confermerà anche Gianni. Vai Gianni. Per niente, lui le piace non stare solo, stare sempre vicino a noi, basta che ci senta, ma non si è mai permesso di saltare. Io l'ho lasciato solo d'estate con tutto aperto, arieggiato eccetera, addirittura anche il ventilatore proprio puntato verso dove lui sta spesso, ok, per aiutarlo un pochino a avere un pochino di aria fresca. L'abbiamo lasciato quasi tutto il giorno, dove l'ho lasciato l'ho trovato, con tutte le porte aperte, tutto, dove l'ho lasciato l'ho trovato, e non pensare che sia un cane piccolino, perché Filippo pesa quasi 40 kg, ok, ed è abbastanza grosso come cane, tant'è vero che non riesce a saltare molto, però io da piccolino l'ho abituato così. Se tu allora li abitui a stare nel suo habitat, sai pur certo che da lì non escono e lì si comportano nella maniera loro. Mai abituarli a darle da mangiare mentre stai mangiando tu, a farli muovere dentro casa come ti muovi tu. No, lui deve stare fermo nel suo posto. Questo è il mio cane. Tant'è vero che è un bambino. Quando va a bere c'ha la sua ciotola, quando va a bere. Tu immagina che io l'ho abituato da piccolo, perché è un morosso, quindi bava, quando lui va bene, beve, mi aspetta che io vada ad asciugarle il muso con lo Scottex, se c'è un rotolone grande di Scottex, quello industriale, lui mi aspetta lì, non si muove, capito? Perché io l'avevo sgridato da piccolo e quindi lui sa che io non voglio, quando beve deve aspettare a me o a mia moglie o a mia figlia, aspetta, non si muove da lì, è una cosa terribile. Così deve essere, educato così deve essere il cane. Allora, dove c'è questa gente, ragazzi, se lo prende, se lo mette in grembo, se lo colca nel letto, come ha fatto mia cognata, una volta se l'ha preso un cocker, l'ha preso, l'ha pagato, 900 euro l'ha pagato, è andato a Cagliari a comprarlo, ha preso un po'. A un certo punto, va bene che ancora era piccolo questo cane, è uscita lì una domenica sera e ha lasciato il cane a casa. Questo cane si era salito sul divano, aveva comprato un divano 4.000 euro, appena comprato, nuovo, un divano antico, bello, molto bello. Gli aveva fatto tutto a brandelli, tutto, quando è tornato ha trovato tutto il divano, tutto a brandelli. Perché si può immaginare, perché? Perché non era stato educato come si deve. Certo che sì, se tu non le dai quell'educazione necessaria al cane per poter capire che determinate cose non si fanno, lui, per lui è tutto un gioco. No, il mio non è così, il mio non è assolutamente così, è un cane buono, fuori, si scatena, gioca anche con gli altri cani, non le danno fastidio ai gatti, perché qua è pieno di gatti, io quando lo porto le passa vicino, non li disturba, è un cane molto molto tranquillo, è un po' così giocherellone anche con i cani piccoli, con i cani grandi va d'accordo, non va d'accordo, dipende dal cane che è, ma tra cani sai, è così. È amante dei bambini, Gianni, molto amante dei bambini, infatti io lo tengo molto guinzaglio, perché se lui vede i passeggini con qualcuno le va sopra il passeggino proprio, quasi si siede sopra il passeggino, capito? Allora siccome era piccola così ed è ancora da grande così, e allora lui va a guinzaglio, io non lo muovo, lo muovo solo se è recintato, capito? Diversamente no, però queste cose che hai detto tu non gliele fare, non le dare pasticci, il cane deve mangiare il suo, mangiare e basta, una volta che ha mangiato, via, allontanati, vai al tuo posto, cioè fateli rispettare i comandi, perché quelli sono cani molto particolari, sono cani bravissimi che però addestrati in una certa maniera ti danno grandi soddisfazioni, se invece tu non le insegni le cose necessarie ti sfuggono di mano, vai Gianni. fece così, una certa responsabilità, un padrone ce l'ha sempre. Quando il cane non è educato bene può fare dei danni anche, no? Invece in questo modo, come stava dicendo Claudio, ad esempio, quando va qualcuno a casa sua, l'ha detto più volte, abbaglia, si mette davanti alla porta, però non è violento, non aggredisce nessuno, però si fa sentire, e questa è una cosa buona, perché si fa sentire dal padrone, in modo che il padrone possa controllare chi ha la porta, chi sta arrivando, insomma tutte queste cose. Sono cose appunto che bisogna insegnare al cane. Se al cane non gli si insegnano, da solo può anche essere violento, può essere aggressivo, non si sa mai. Invece se gli fai capire certe cose, non c'è bisogno di andare a picchiare, mommy. Assolutamente, non dovete picchiare per imparare queste cose, è peggio. Io tante volte ho visto l'addestratore in televisione, ma casomai lo premia con la caramellina o la edera, non lo so, un bocconcino, che ne so, che cosa verrà. Proprio per fargli capire che deve fare quello che lui sta insegnando. Riprendi qua. Sì, sì, assolutamente sì, è proprio così, capito? No, ma il mio, guarda, c'è Massimiliano che viene spesso qua, quando sa le salse, le suocere, eccetera. Conosce la macchina di Massimiliano, come suona e dobbarti alla porta, aprire la porta e andare incontro a Massimiliano, eppure non è il padrone, perché Massimiliano lo gioca, lo fa, lo basa beffa, e quindi è molto affettuoso con chi ha confidenza, capito? Certo, sono sempre cani, però qua quando vengono io non lo faccio mai uscire, capito? Stai dentro, stai lì, invece lui vuole sempre uscire a vedere chi è, ma questo cosa vuole, perché è venuto qua? E oramai questa è casa sua. Se però tu suoni, lui sente gente nelle scale, va nella porta e si siede, e a volte abbaia e ti dice, oh, mighi non capisci il buio, non ti avvicinà, perché sennò, capito? E così, infatti noi siamo molto molto tranquilli. Mia moglie prima, quando io ero fuori per lavoro, si chiudeva, adesso non si chiude più, perché Filippo è molto attaccato anche a mia moglie, sta sempre appresso, la segue, capito? Non... Il cane è bello a casa, però ti do un consiglio, non le dare pasticci, perché quella è una categoria di cane molossa come il mio, che non possono mangiare assolutamente cose. Stai attento ai cioccolati, non dare cioccolati, non dare caramelle, non dare panna, non dare gelato, non dare pasticci, e soprattutto stai attento all'alimentazione con la cipolla, capito? Non ci deve essere cipolla, non ci deve essere pomodoro, non le dare pasta al sugo, la pasta fagliela in bianco se gliela devi dare, ok? Con un pochino di carne macinata, se non gliela dai anche la sola, le fai delle zuppette di pane, dalle pane duro, però non le dare pasticci, perché altrimenti hai perso. Il molosso è un cane molto ma molto delicato. Riprendi. Sono rientrato, sì, ma è così. Però ti ripeto, stai molto attento all'alimentazione, perché sono dei cani molto particolari che praticamente necessitano di un'alimentazione molto molto corretta, capito? E tuo tira. Il mio è già la terza volta che vince la gara di tiro, ha vinto due volte a Macomere e una volta ad Alghero, quindi sono dei cani che ti danno grandi soddisfazioni, capito? Riprendi o Marco che rispondo al telefono. Ahia, ecco qua, sono ritornato. Ho cambiato anche radio già che c'ero. Bene Capri, come mi ascolti? Scusaci tutto. Zitto con Comane. Un briaco nefragico. Siamo lì, questo ho lo smitter digitale e quindi il controllo giusto non te lo posso dare. No, mi interessa solo la radio è buona, il segnale non mi interessa. spesso ci sono casi in cui si disturba, ma comunque secondo me la colpa è di chi ha l'impianto messo male, può essere un amplificatore, può essere un cavo pieno d'acqua, può essere la scatoletta, un miscelatore, no? Oppure può essere la TV. Cosa si pure che un decoder sia talmente a larga banda che pigliamo un destra, tutto è possibile. E vedi che Natalino è tartassato, da quando ha messo l'antenna grande è tartassato. Adesso tutto tace, da quando ho i filtri, tutto tace, speriamo che siano, che sia efficace, soprattutto quello. Quello lì che, come si chiama? Aspetta. 27 586/586. Ma non parli? A me sta dicendo, ma. Sì, stavo parlando del filtro. Per adesso nessuno ha detto niente, speriamo che sia efficace. Infatti, e ce ne sono due, c'è anche l'altro, gliel'ho aggiunto, non si sa mai, perché dice con uno solo un po' disturbava. Con uno solo? Ma quale, il tuo o il mio? No, il tuo, quello che mi hai portato tu, con uno solo, non ce la faceva evidentemente, vuol dire se puoi chiamare a Vivici. Sì, sì, ci avranno qualcosa che non va. Però uno che si debba fare i problemi degli altri, il colmo. Vediamo se è stato Giulio o Claudio o tutti e due. Sì, sono diventato, ciao Natali. Sì, e appunto stavo, no, non sono uscito fuori perché c'era una macchina che stava strombattando col clacson e non si capiva cos'era, e c'era uno davanti al suo ingresso con tanto di cartello e si era parcheggiato così. Niente, così, come se fosse a casa sua, no? Ma non lo so io adesso, ma quando mai non ti rendi conto che c'è lì scarpato cadavere e tu ti metti davanti, poi senti suonare e intanto lo scegli. E per dire, no, ci sono sempre queste persone così maleducate. Io le considero maleducate, non che non lo sanno, perché lo sanno, solo che lo fanno apposta, perché è gente prepotente. Gente prepotente, non sa vivere in maniera civile, senza se danno un paio di scatole alla gente non sanno fare, capito? Per cui a questo punto secondo me siamo di chiamare il vigile urbano, che sinceramente a uno dispiace anche, non è che ci prende uso chiamare il vigile urbano per far portare la macchina, però un certo punto se vedi costretto, tanto lo sai che lì se io ho messo pago la tassa per il caso il tasso calabile, evidentemente perché mi occorre entrare e uscire a tutte le ore del giorno e della notte, per cui tu non me lo devi chiudere. E allora se me lo chiudi io ti chiamo i vigili, è giusto così, e non sei che uno si offenda un po' o faccia per potente te lo posso parlare, perché come dire che fatti prendi denuncia, te lo posso parlare, cosa sono queste minacce? Sono minacce assurde, riprendi. Poi gliela fatta davanti ai vigili urbani le minacce. E quindi gli hanno detto, ma noi cosa dobbiamo fare secondo lei? Che minaccia una persona di fronte a noi, ma è di chi si terra a terra, me. Quelli che, sai cosa vuol dire, proprio il falso popolino, me. C'è sempre questa parola ricorrente che uso, popolino, e beh, quello è del falso popolino, capito? Sì, sono i soliti prepotenti, i soliti randaggi, io li chiamo randaggi con le persone lì, perché non è possibile che uno si debba comportare in quella maniera. Se ti chiamo, tu me la devi spostare la macchina, non devi fare incomodarci su, perché io ho anche urgenza di uscire con la macchina dal garage o di entrare, questi sono problemi miei, sono fatti miei, e tu mi devi lasciare sempre lo spazio per poter entrare e uscire, senza che tu venga via a rompere denaro, perché io pago annualmente una tassa. Il discorso è questo, invece no, se sei sempre potente, non si sa. Come tutte le cose, no? Come quello che si mette la macchina sopra la marciapiede davanti alla porta d'ingresso, oppure quell'altro che si mette la macchina, io tutte le mattine vado lì al bar e mi attacco a prendere il cappuccino, no? E all'angolo di via Castelletta sistematicamente c'è sempre la macchina parcheggiata, ma arriva qua e non può girare. E tutte le volte, tutte le cose che fa qua, deve fare attesa che quello sposti la macchina. E ci stanno anche alle volte anche 10 minuti tutte le macchine in colonna in attesa di continuare a transitare. Perché entra non può girare. Il discorso è questo. Ma non lo voglio non capire, non lo voglio non capire, c'è da fare. Avete parlato in due, avete ripreso nello stesso momento, Giulio è passato. Capri, dimmi la tua, cosa hai detto? Vengono perché non vengono, anche loro stanno diventando sono sempre, abbiamo le macchine occupate e buon viaggio. Lo fanno solo con i locali, quando alla lunga no, ci sono i locali che stanno con la musica alta, allora fanno col fonometro, ma per un cittadino singolo se ne affutti, capito? Allora io prendo il fucile a pompa e gli tiro una fucilata dentro casa, li tiro alla prossima volta che mi rompono i coglioni, perché ne ho le scatole piene qua. Ho bisticciato l'ultima volta a me, a Giovanni non basta dare l'animi. Magari trovi uno giovane, mi ti dà due ciapotti, papà, ti corica. Ma quello giovane deve sapersi azzuffare, prima cosa. Poi bisogna che riesca a avvicinarsi, a colpirmi. Ma se sono giovani sono sempre forzuti, no? Proprio... tu devi pensare anche che c'hai il cuore così, non è che ti devi aggirare troppo. Purtroppo è così. Gianni non è entrato oggi, doppio rum, vediamo, Gianni doppio rum sei, oppure Claudio se sei entrato. Sì, doppio rum sta lavorando, non sta pensando a te, te l'ha anche detto che è di sera. È vero, ma lo ci ho ricordato un attimo dopo, che è di sera e quindi non sei entrato. Lì lo stanno consumando, mia, al lavoro, lo stanno consumando proprio, lo stanno spremendo ben bene, mi. Carità, dicono che ti aiutano, ma non è così, non è proprio vero. Ma io, Claudio, questa telefonata, qui forse lo stanno cercando per lavoro, osa. Sto mangiando una frutta comela, grandissimo. È vero, mia mamma oggi mi ha parlato dei cacchi, ce ne vuoi un paio così tanto per vedere come sono. Cacchi normali, però il mela, a meno che non siano dolcissimi, noi non li prendiamo. Quando sono troppo duri, troppo bianchi, non sono buoni. Ma quando sono maturi, sono un bijou. A feste ce li mangiamo, Certo, oggi buon bocca. Sì, sono un po', questi qui, bisogna sapere scegliere, un matto. Quando il compito devi sapere scegliere. Per cui non è un problema. Eia, e tu capri due, che frutta ti piace? Che frutta ti piace a te? Le mela morbidi, spesso sono duri, sono, mamma mia, legano la bocca. Anch'io preferisco gli altri, poi dipende dal cacco molto. Bene, caro Natalino, Nara, non è entrato oggi quel pompone nel Luca del Monte, no? Bene, infatti, quelli morbidi, quelli molli, alla volte devo stare attento, ci può essere anche il verme, mentre invece nel cacomela non si trovano mai i vermi. Ma raramente proprio, magari non l'ho visto, ma lo sono anche mangiato. Meglio. L'importante è che lo siano troppo sfatti, siamo qualche vermicello mini, sai, che poi non sono vermi, sono larve di mocilindri, così, meglio dire, oh vabbè che io ho mangiato il formaggio con i vermi e quindi problemi non ce n'è. Caspita, Aguglia, io l'ho mangiato tante volte, il formaggio con i vermi è buonissimo, a me piace moltissimo, glielo credo, sembra crema, sembra, che una volta... Avevo una paletta, avevo fatta proprio così, no? L'avevo svuotata, tagliata la parte alta, la parte di sopra della paletta e c'entrava giusto un cucchiaino. E la mangiavo come mangiare, che so io, il cioccolato di quello al latte, no? Così. Ma mangiavo con un cucchiaino, ma so che era buono, mamma mia. Il gatto che sta scavando nervosamente nella sabbia, non sa che glielo cambiare. Sono passati alcuni giorni, sì, 2 o 3 giorni, è il momento di cambiarlo. Mi sa lasciare, gliela cambio adesso o più tardi, là, per non lasciare il baracchino. Ehi, vabbè, se devi andare, vai, cosa ci vuole? 10 minuti? Puoi anche fare quella bocca, ci mancherebbe. Fallo, fallo, Marco, se lo devi fare non ci sono problemi. No, è che non ne voglio adesso, più tardi glielo faccio, dai. Questi gatti sono esigenti. Cosa stai facendo? Vieni qui. Qua sto scavando in terra, cercando di trovare altra sabbia nuova, pure. Ehi, già glielo cambio. Appena chiudiamo qua glielo cambio, dai. Ok. Beh, certo. Ma sai cos'è? Che il gatto, dopo l'ha già fatta, non ci ritorna, capito? Mai lo fa vicino, però nello stesso punto non te lo fa, sceglie sempre il posto pulito per fare. Eia, è vero, è vero. Sai cos'è? Che dopo alle 8 mangio. Mi sa che lo faccio adesso, dai, vedo che è in pena il gatto, dai, faccio quel rischio, dai. Continuate voi, faccio questa cosa, dai. Ok? A dopo, ciao. Ok, Marco, ciao, a dopo. Sì, no, parlo, dai, perché l'animale magari ne ha necessità. Noi non lo sappiamo, ma lui o lei, a secondo del tipo del gatto, del quale settore, maschile o femminile, anche loro non è proprio esigente, per cui è meglio trattarli bene, dai. Natali, che sì? Eia, che ci sono. Ma perché non sei venuto stamattina a prendersi la parte finale della carne alla pesca? Non sono venuto perché ero all'Inan e poi al CAF, se lo adesso stavo sbrigando quelle pratiche. Ma io ho capito, vabbè. Comunque già ci sono anche domani mattina in bottega. Ho buttato quasi tutto. Poi ho buttato l'attaccatello nuovo, sai cosa vuol dire nuovo? Poi ho buttato due stufe allo stesso funzionante di quella gas, che poi tra l'altro avevo anche un pannello di ricambio, ho fatto il pannello di ricambio non era stato mai utilizzato, bastava cambiarlo e avevo la stufa nuova come quando vai in negozio, perché il pannello non era stato mai utilizzato. Me l'aveva dato Emanuele a suo tempo quando faceva quei lavori lui, col pannello lì. Le stufe invece ce l'avevo io da tanti anni in bottega, già una decina d'anni più o meno, 9-10 anni, e ce l'avevo sempre sopra il suo palco. Mi dava fastidio e poi sto eliminando tutto. Ho preso e l'ho buttato, l'ho preso vicino, avanti. Tanto a qualcuno ho chiesto se la voleva, no, non me ne faccio niente, già ce l'abbiamo, non chiedo più a nessuno, almeno la stessa lampada non vado vicino. Ci ho buttato degli specchi, nuovi fiammanti, specchi, belli lì, che si potevano fare anche cornici per il bagno o per altre cose. Avanti, tutta roba di bici, tanto tu alla gente vai a offrirgli certe cose e non le vuole. L'unica cosa che mi hanno accettato è quello dei davide, no, la legna per da su, quello sì, l'ha girato un sacco di legna, ma che avrà legna per tutto l'inverno quest'anno, Davide. Allora ma così casi di no altro. E infatti se casi di chiaro vivo. Ma Gianni Capelluti c'è sempre, sì, Gianni sì. Thank you. non servo le cose. No, io sono portato la bottega, adesso ho la segannata che devo chiudere. E poi devo fare delle modifiche, devo traversare, insomma devo in poche parole aggiustare il magazzino perché faccio l'ufficio per mia figlia. Dunque devo ripristinare l'intonaco, perché l'intonaco col tempo sai, ha appoggiato tavoloni eccetera, si è rovinato, e adesso devo ripristinarlo tutto, pavimento nuovo, tutto nuovo, farò la porta nuova, tutte queste cose, insomma devo fare l'ufficio, e dunque tu lo sai l'ufficio come deve essere fatto e che condizioni bisogna che sia, per cui piano piano, non è che ci sia tutta questa fretta, però lo facciamo, dai, lo faccio ormai, te l'ho già detto a mia figlia, te l'ho già promesso, e per cui lo faccio, anzi lo sto già facendo, ti ho svuotato tutto, legname, pannelli, di compensati, ripiani, già ne ho dato poco, ti sto dicendo, senti buoni mi, ma buoni veramente, cose che potevo anche mettere da parte, ho fatto male la parte di tutto l'uomo, intanto non me ne faccio più niente. Per cui va bene così, ne prendi la carica. Sì, infatti, almeno fai qualcosa di utile di quel locale. Beh certo, no, addirittura mi avevano chiesto se la fissavo. No, ho fatto no, non la fisso, serve a me e basta, tutto lì. Anche Davide me l'aveva detto se la fissavo. Ho fatto no, non la fisso perché mi serve, che devo fare l'ufficio a mia figlia, così almeno adesso dovrò comprare dei blocchetti per fare il tramezzo, lo tramezzo a metà, poi la porta adesso vediamo se gliela devo fare scorrevole, se me la faccio aprire normale, poi staremo a vedere come la voglio lì, se la faccio. E anche la porta esterna, se faccio anche la porta nuova esternamente. E così poi te lo consiglio, portati la scrivania, portati la sedia, portati tutto quello che ti occorre, la libreria, eccetera, e vai in ufficio. E così almeno tranquillo. Perché andate in giro a chiedere i prezzi degli appartamenti e costano un sacco di soldi, costano. Capita. Non è possibile, devi lavorare per l'affitto, no, fatto, ma chi te lo può fare a pagare l'affitto quando abbiamo il locale che tu non paghi niente? È così appunto ho deciso io, e gli sto facendo quello l'ufficio lì. Vabbè, se prendi Gianni. Va cambiata, ne ho un bel di scorta e non ne avessi. va bene, insomma, fatto, dai. Adesso si possono scialare come vogliono, mi chiudo. Beh certo, bisognava farlo, dai. Com'è vero che mi avresti dovuto cambiare la posizione? Perché se ti trattieni troppo, magari incominci anche a puttare, che te lo fa fare? Vabbè, tu mi dirai, no, magari una posizione come può anche andare bene. Ma è meglio, dai, è meglio. Gli animali hanno le loro esigenze. Sarà noi che prendiamo gli animali, anzi trattarli bene, bisogna trattarli bene, però bisogna lasciarli a altre persone, e io lo faccio così. Io ripeto, non ne ho animali, non ne ho avuto e non ne avrò mai, perché non mi prendo quell'impegno lì. Però dovendo prendere un animale, va bene, è stato benissimo, non bene, benissimo. Per cui è giusto che sia così, io la penso in questo modo, Marco. Beh certo, invece sai cosa mi dà fastidio? Lo sento nell'aria proprio. La polvere fine della stateria. È di tipo rosso, no? Tipo argilla, no? Però ha una polvere fine che proprio la senti nel naso, è una cosa terribile. O mi tenevo la mascherina, parlavo con la mascherina al baracchino, ma insomma. Insomma, la si sente molto, e se la sento io figura di quanto la sente il gatto, mamma mia. Vabbè, mi sono anche bagnato il naso, le narici, per farla andare via. È proprio una polvere impalpabile, no, che proprio è talmente sottile che, come le polveri sottili dell'inquinamento, non la vedi, ma la senti al naso. Già lo credo, e infatti bisogna anche fare attenzione a non respirare queste cose, perché sono cose che fanno anche molto male, per cui prendi tutti i provvedimenti giusti per poter appunto fare anche quel lavoro, quell'operazione lì. E no, non è mai troppo, la prevenzione non è mai troppa, o Marco. Soprattutto quando si tratta di animali si sa per quanto possano essere curati, eccetera, però portano sempre delle malattie e per cui bisogna stare sempre molto ma molto attenti. Bene, bene. Avanti Gianni. Iniziato Gianni stasera, noi due insieme, poi è arrivato Claudio invece siamo ancora qua, sono già le 7.18, passate anche, per cui 2 ore e oltre, va bene. E intanto cosa facciamo quando siamo a casa? Così. No, per quanto riguarda la sveglia, io ho una sveglia elettrica, digitale, che poi in realtà è una radio o sveglia e allo stesso tempo è un riproduttore di coso, di DVD, di coso, come si chiama, di schizzi, dai, per cui va benissimo, non ci sono problemi, molto molto bene. Va bene, riprendi Marco. Ecco, siamo solo in due, Claudio è scomparso. Claudio? Abbassate questa ipotensione, tre. Chi è? Chi è? Franco? Ehi, ciao, buonasera a te, buonasera anche a Giulio. Ciao Franco, ben entrato. Siamo in attesa di tornare a parlare con Claudio. Si è assentato un attimo, probabilmente questione di telefono. E poi Franco, la buonasera. Grazie, ricambiando la buonasera. Come va? Mercoledì. Benino, un po' di indolenzimento alle articolazioni, forse causa inattività. Devo camminare di più, c'è poco da fare, ciò che dico ma non lo faccio mai. Piano piano è aumentando. Mamma mia, c'è quell'odore, Giulio, di quella polvere piccola, sottile. Adesso cambio l'aria, scusate, riprende voi. Ehi, sì, la polvere di gas, stavi parlando poco fa, ti stavo ascoltando. Anch'io qua ho un gas, quindi anch'io. Non so, non riesco, non mi dà fastidio, però sento a volte degli odori un po' strani, quindi bisogna stare sempre a cambiare questa sabbia, così è giù. Non credo, bisogna cambiarla giornalmente, perché però se è possibile anche due volte al giorno, mattina e sera, perché se no puzza e voi lo sappiamo che il gatto è tremendo, è tremendo, quando si attacca con l'odore, prima di uscire è fuori di casa con l'odore, è tremendo, veramente lui, no. No, anche quello è un motivo per cui io non prendo mai animali, perché non me la sento, la verità, e si impegnano molto, ripeto, non è che non li posso vedere, anzi, io gli animali li rispetto, e se mi dovesse attraversare un gatto o un cane per dire per strada, io lo evito, perché è giusto che sia così, però allo stesso tempo non prendo l'impegno di averlo a casa con me, no, nella maniera più assoluta, bravo. Ma io ero al contrario, come che loro hanno voluto provare questa esperienza, ma non lo so, chissà se non sono pentito. Poi è un gatto a pelo lungo, quindi le fa sempre anche a spazzolarlo, se no si riempie di peli la casa. Sì, perché vola, poi se sa il gatto sale sulle poltrone, sale, alle volte anche sui mobili, e lo vedo anche tutte le volte, se c'è la notizia ne combinano di ogni colore, ne combinano questi gatti, no, non va bene, dai. Non va bene, però no, non fa per me, non fa per me, ci vuole lo spazio adatto, ci vuole per gli animali, allora sì, avendo lo spazio adatto si possono anche tenere, però a tenere a casa, in appartamento, io sono contrario, veramente. Marco, sei rientrato? Sì. Ho aperto la porta finestra della cucina per fare passare un po' di aria. Ma io dico, pensa, se a distanza di 2,5 metri, disturba il mio olfatto, pensa al gatto che ha un olfatto finissimo quanto viene disturbato da queste polveri. Dovrebbero fare delle polveri che non fanno, cioè della sabbietta che non fa queste polveri qua. Ma se no davvero il gatto gli dà molto fastidio. Vabbè. Poi oggi, vabbè, ho usato la mascherina, quella normale, si disse non usa getta, ma quasi. Non ho usato quella professionale, quella ti toglie, proprio ti filtra completamente le polveri sottili, perché è un filtro P3, poi non senti nemmeno gli odori, perché è un filtro AB e K, che filtra tutte le sostanze chimiche e anche tutti gli odori, capito? Con quella proprio non passa lo straniero, capito? Cazzo. Cioè che ormai vedi l'interrato fuori dal portoncino quando lo fai travato dalla sabbia per evitare che la polvere si riempia a magari. Però sai cos'è, si apro di notte e quella gattina fugge nel giardino vicino. Sì, se ne esce e poi torna a notte fonda, capito? Sta troppo fuori, non mi va. Finché di giorno posso capire, di mattina, primo pomeriggio. Però se esce di notte poi sta un bel fuori. Qui ci preoccupiamo sempre che può essere successo qualcosa. Stiamo sempre con la paura, capito, che non torni, oppure che si infili in qualche posto dove non riesci più a uscire, che ne so, tante cose possono succedere fuori casa. E quindi mio, ho aperto ma ho messo il blocco per non farla uscire, perché lei anche mettendo il passante, no? O meglio, tu apri la porta finestra e ci abbiamo una specie di reticella che serve a far passare l'aria ma non uscire i gatti. Beh, la gattina, quella più furba, ha trovato il modo di uscire lo stesso. E allora gli ho trovato il modo di fissarla con la corticella, in modo che non esca. Vero è, vieni qua, modellami. Sempre danno sto facendo questa gattina. L'altra è più rustica, più grassoccia, ma meno intelligente. Però è più buona, molto più buona, è proprio... Si fa sempre toccare, lisciare, baciare in qualsiasi momento l'altra. No, no, sono molto indipendente, mi piace un po' le coppe la mattina, quando si alza e basta, poi diventa molto, molto indipendente. E così è un po' flow, cioè le coccole le vuole a comodo suo, poi per il resto vuole essere più lasciata in pace. Invece l'altra, Puffa, chiamava Viola con la vecchia padrona, noi l'abbiamo chiamata Puffa così perché era a pelo lungo, bella, un po' cicciottella, no? Quella è sempre pronta alle carezze, quella è una cosa, è la bontà fatta gatta, guarda. Tu mi dici come mai c'è questo segnale per il gatto? Se riprendi giù. È tuo? No, è tuo. Perché alto è? Ah, beh, sono 10 watt questi. 10 watt contro i 4 soliti. Non ti ho mai visto, sei forse oltre 9-10. Immagina quando ne metto... quando ne metto 80 di watt. Non l'hai mai provato? Sai cos'è? Ho prestato il filtro natalino. Il filtro che si mette dopo lineare, se no rischio di farti guai. No, così, una curiosità infatti, senza parlare magari. Sì, sai cos'è? Tutto smontato, dovrei rimettere tutto da capo. Non lo lascio lineare qua, cioè. Lo levo, lo metto via, solo ogni tanto lo piazzo, tanto per farlo funzionare. Ma non sono di quelli che esce sempre con potenze elevate, al massimo 10 watt su questo baracchino, ma oltre non vado. Scusate che io al telefono vi abbraccio a tutti, ma è una telefonata un po' lunga, sapete io sono in chiusura e quindi i miei colleghi già sono disperati, ogni tanto mi chiama qualcuno. E momentaneamente vi lascio e vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Eia, sei a Claudio, ma i tuoi colleghi la stanno a fare la pipì da soli o chiamano te? No, chiamano me, guarda, questa chiamata era a Cagliari addirittura, è arrivata voce che io il prossimo mese ho finito, quindi c'è un po' di disperazione totale. Lo so per dire io, saranno disperati adesso perché eri un punto di riferimento lì, vabbè. Sì, ma ce ne sono altri lavoratori anziani che li sanno aiutare, dai. Vai Giulio per il Claudio, sta andando a portare il cane adesso, dai. Ok qua, buona passeggiata qua. Lo so, questi sono gli ultimi giorni, o meglio gli ultimi mesi, anche lui poi farà l'abito da pensionato, anche lui poi si dovrà adattare al nuovo tipo di vita. comunque va bene così, diciamo che va meglio anche, che ha finito se non altro di sacrificarsi a tassi tutte le mattine alle 5 e mezzo per andare al lavoro, per guadagnare il pane. In questo modo invece c'era sotto il cuscino la mattina appena che si sveglia, c'è già la giornata parata, poi ogni mese va e se la ritira, ogni primo del mese va e se la ritira, la paga. Va bene, avanti qua. Ah, Grazie Franco, ce lo saluto, vai, ciao Fra. Marco, per chiudere, poi vado. Il problema sai qual è? Che il proverbio dice tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Però io ho dimostrato a tanta gente che sono indispensabile, capito? E non mi vergogno di dirlo e non me ne sto vantando, ma sono indispensabile, perché quando tu ricevi una telefonata da un responsabile di Cagliari, della zona di Cagliari, dicendo e offrendoti Mari Monti per rimanere altri 2 anni, vuol dire che le cose sono state fatte bene, credimi, come un fratello più grande di te. Vai Franco. No, Fra, non posso tornare indietro perché le pratiche sono già definitive, ma ho una grande stima, cioè l'azienda ha una grande stima in me, glielo ho dimostrato in tutti questi anni e sono veramente orgoglioso di andarmene via a faccia alta e con un rapporto da 100 lode, come che sia una laurea. E questo è un grande vanto per chi ha veramente voglia di lavorare, voglia di sacrificarsi e soprattutto voglia di imparare come ho imparato io, perché io sono arrivato in azienda che non sapevo fare assolutamente niente e oggi mi ritrovo ad essere una persona con grandi responsabilità e con così praticamente la fine di questa voglia di fare con grandi orgoglio soprattutto, capito? È una grande soddisfazione per me ricevere telefonate del genere, tutto qua. Va bene, vi lascio, vado a portare il cane. Adesso ti chiamano, ti diamo il doppio, però rimani. E ormai sono fatte le, come hai detto tu, i documenti. Vabbè, è una bella soddisfazione, dai. Vai Franco. È tutto contrario della nostra azienda invece. Fa di tutto per non farti lavorare bene, guarda, perché li lasciamo perdere. Va bene, avanti giù. Aspetta Giulietti, dico no, quello no, non è mai capitato, ma tu immaginati o Marco, che a me mi hanno già offerto con un contratto diverso da quello che ho, se a giugno farmi giugno, luglio, agosto e settembre col doppio dello stipendio per coprire la mia zona, perché non c'è nessuno che possa fare quello che ho fatto io in 4 mesi, nessuno c'è, e ti ho detto tutto. Buon intenditore, poche parole, vai Giulio. Beh, quando uno si comporta bene sul posto di lavoro non ci sono dubbi che sarà sempre apprezzato da chi appunto lo ha fatto lavorare, certo, ci mancherebbe altro. Ma io guarda, ti posso dire, vabbè, ormai sono passati tantissimi anni, eccetera, ma quando io ero in stabilimento, da parte di casa, perché io ho imparato via a Sassari, c'erano parecchi anni lì, ho imparato lì. Quando gli ho detto al principale che io dovevo fare l'ultima settimana di lavoro lì in stabilimento, voi non ci crederete, ve lo giuro, il principale si è messo a piangere, tanto per darti un'idea, senza nessuna presunzione, questo lo dico, perché effettivamente è così, lo giuro, il principale mio si è messo a piangere e mi ha detto, per quale motivo te ne vuoi andare? Ma glielo ho già spiegato, gli ho detto, me ne voglio andare perché mi metto a lavorare in proprio. Lui mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto, io sono contento che tu cerchi di migliorare la situazione, però sarei disposto anche a aumentarti lo stipendio, nonostante che tu sei più parato di tutti i 70 operai che ci stanno lavorando qui, in questo stabilimento. 70 operai, 13 ragazzi di banco, diciamo così, dai, aiutanti, 3 uomini di fatica e il meccanico per la manutenzione delle macchine, di faniglieria. Dalla sera, dalle 3 fino alle 7 di sera c'era giornalmente fisso il meccanico, che era un militare che lavorava solamente la mattina e la sera veniva in stabilimento e faceva manutenzione ai macchinari. Per dire, no, il principale, maestro Antonino Caso, buon'anima, si è messo a piangere perché io non me ne sono andato da lì, tutto lì, mi voleva bene, veramente. Avanti fra. Anche queste sono proprio soddisfazioni, sì. No, anche io quando ho mollato nel mio vecchio lavoro, io facevo, ero cavata in pista, facevo i pizzi in alluminio. E poi guido il concorso e sono andato via. Però è dispiaciuto a loro. E comunque tutto ci siamo rimasti buoni rapporti. E prendi Marco. Sì, mi ero allontanato un attimo e ciao Claudio, se devi portare il cane, dai. Eccomi qua, ma non tarderò a chiudere. Oggi mi voglio vedere un telegiornale. Io non ho visto niente, nemmeno oggi. Vestendo mi sto andando. Ah, giù. Canti Nadari, Capiranno e Pasqua, Pasquetta e tutte le domeniche, mai assente, tutte le domeniche. Lo so, te l'avevo letto, tu ce la vedi a sangue, che tutte le giorni festivi eri quasi sempre impegnato. Sì, e poi devo dire anche una cosa, tornando al mio discorso, quando iniziate a lavorare, voi sapete benissimo che quando uno inizia lavori ce ne sono ben pochi, anzi quasi nulla. E il principale a me mi ha aiutato perché mi passava i lavori, quelli che lui aveva in più li passava a me, li passava. Veniva tutte le settimane il fratello, Maestro Gavino, che era quello che andava in giro a contrattare i lavori, eccetera, eccetera, a prendere misure, e mi portava i lavori, mi portava sempre. E così è stato, ho lavorato per conto mio 48 anni, non un giorno, 48 anni di lavoro autonomo ho fatto, sempre iscritto alla Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Perciò, per dirti, poi quando mi sono presentato qualcosa ho fatto, ma l'ho fatto solo per le cose personali, non per i clienti. Adesso che sto smantellando la bottega qua, perché devo fare l'ufficio a mia figlia, nel locale, ti dico che venerdì scorso è venuto uno e voleva un lavoro, ma non mi dispiace, no, sono anni ormai che non lo sto più facendo e poi sto smantellando la bottega. Che dici qua? Ho capito, beh, se ti passava il lavoro sicuramente ci fidava delle tue potenzialità, dai. È proprio così. Avanti Marco. Ehi, caspita, 48 anni di lavoro. Ha iniziato giovane, no Giulio? Molto giovane. No, a 42 io me ne butti 20 anni, Giulio. Guarda, io, Marco, io ho lavorato, in tutta la mia vita ho lavorato 62 anni, tanto per darti un'idea, perché ho iniziato che avevo 10 anni e mezzo, avevo, un giorno passando lì per il corso, dove c'era prima Luppi Vecchio, il primissimo Luppi di corso Vittorio Emanuele, c'era questa signora sulla porta del negozio, la Fiorentina, negozio di elettricità, io ero con mamma, siccome si conosceva questa donna con mamma, mamma mi ha regalato per stare in bottega, ma che cosa lo mando a fare? Ma che so, se sta 10 anni e mezzo a poi a mio figlio, ma non fa niente, non si preoccupi, tanto non è che deve fare niente, al massimo lo mando qui, mi da capita lì, accanto c'è capita, Brasil, no? Al corso, che ancora oggi c'è. Beh, fatto salve, mamma, ma ci vuoi andare? Ma te ne andando alla scuola, mandami, e sono voluto andare. Ma facevo io da scuola in negozio, da negozio a casa, da scuola a negozio, da negozio a casa. E ho imparato a fare l'elettricista e l'antennista per 12 anni. Io ho fatto quel lavoro e lavoravo anche autonomamente, nel senso che il principale non andava a fare gli impianti e le riparazioni. A quel punto lì, un bel giorno arrivano queste tre persone, signora Massima Serranda e l'ufficiale giudiziario, e ha fallito la ditta, ha fallito e sono rimasto senza lavoro. Mio padre, che era capo operaio in un'azienda, l'impresa Planeta allora, mi ha detto, vieni con me quando stai a trovare il tuo lavoro. E io ero grande, avevo già a 22 anni più o meno, con l'età di... sono andato e ho imparato a fare falegname, e di falegname ne ho fatto 50 anni più o meno, anche di più, sono di più di 50, forse anche 55, adesso il conto preciso non lo so, però per dire, sono di autonomo, autonomamente ho lavorato 48 anni, Marco. A voglia, a te basta, no? Totale, e ne ho 75 e mezzo, io adesso, oggi come oggi ho 75 anni e mezzo, e devo essere sincero, a me la falegnameria mi manca nel senso che mi hanno costretto a casa a smettere già da 2 anni fa, perché se se no io avrei continuato a lavorare, forse probabilmente fino alla morte, perché mi manca, e ancora oggi devo dire che mi manca. Però adesso ho deciso, faccio l'ufficio a mia figlia nel locale, perché senza roba mia, dunque lo può utilizzare mia figlia. Avanti, fra. Quando uno è abituato a lavorare, che deve fare? C'è ancora tutto, le macchine, c'è ancora tutto. Ho tutto quanto, infatti voglio togliere via la tagliannaccio, la voglio togliere, perché il locale lo tramezzo a metà e momentaneamente, siccome ho ancora delle cosettine da fare qui per casa, mi trasferisco le macchine in fondo alla bottega, no? Metto la porta, faccio il tramezzo con porta e devo, per dire, non so, verniciarmi una persiana di casa, cosa faccio? La prendo, me la porto lì, me la vernicio lì, me la vernicio. Poi, quando avrò finito tutto completamente, che non farò più niente, allora le macchine butto fuori anche le altre macchine, però al momento la segnalazzo la devo eliminare e molto probabilmente la dovrò regalare quella è pesantissima, no? Che non è presa, mi sembra che pesa roba di 8 quintali, ci vuoi immaginare, ci vuole la ru, per portarla via ci vuole la ru e un camion. Beh, lo so, qui in azienda ne abbiamo qualcuna di quelle macchine lì, qualcuna addirittura è buttata, qualcuna ancora la stanno utilizzando. Lo credo, io ho macchinari per fare una famiglia completa, oltre a tutte le piccole cose, macchine da banco, morsetti, frese, frese da banco come scalpelli, martelli, tenaglie, mattone, tilanti, ho tutto, io ho lavorato con 8 anni, se vuoi immaginare, la mia posizione, me la sono fatta, mi sono fatto la casa, lì mi sono fatto un altro appartamento, ho fatto studiare mia figlia che è laureata già da più di 15 anni, per dire no, io già autonoma, lavoro autonomamente, eccetera. Tutto con le due braccia, senza l'apporto mai di nessuno, però ho sacrificato, perché c'erano dei giorni che arrivavo anche alle 10 e anche alle 11 di notte a casa arrivavo, perché avevo sempre tanti di quegli impegni e io agli impegni ci tenevo, non sono mai mancato di parola. Mi prende Marco? Lo posso di me, lì. vabbè, è andata così, dai. Dove sono, signori? Aspetta che c'ho tutto spento qua. Più o meno, 8 o meno 10 ci saranno. Siamo da 43. Ancora un po', dai, ancora un po'. Meno male che l'odore si è andato. Però, caspita, apro la finestra e entra l'odore del camino del vicino. L'odore di bruciato. Te l'immagini. Metti in un aspiratore dove c'è il gatto, occhio dove non aspiri anche il gatto. Eia. Siamo scappate il gatto. Vabbè, torna sempre, però. Metti che in qualche giardino abbiano messo il topicida e lei lo mangia, che ne so. Ci sono tanti pericoli per il gatto quando va fuori dalla casa e non lo possiamo sapere. No, il nostro amico vuole uscire pure a porti di giù e diventa un giardino, perché sta ventando, si appiattisce. Invece a questa Flo le piace girare. Se potesse girerebbe di più, anche nel portone quando rientro. Quando lei è ricco dall'androne, il giorno, sì, c'è qua, chi c'è? E lì comincia piano piano uscire, a annusare, a esplorare, per lei si farebbe tutti i piani, solo che poi non ce n'è ascensore, quando prende laggiù, si vede il piattone. E invece non so, noi abbiamo un piano su e un piano giù, quindi facciamo presto a recuperarlo. Guarda, le prime volte che ce l'avevamo, a questo punto era scappata proprio dalla porta d'ingresso, era entrata da un vicino, due piani, cioè come questo è tornato a casa, ha aperto la porta, quella ha visto una porta aperta, si è infilata e non conoscendo l'ambiente si è rifugiata in terrazzino dietro un contenitore d'acqua, qualcosa del genere. Abbiamo messo i cartelli, ci andavamo sparita, ci ha chiamato questo, non sapeva chi fossimo noi, siamo andati a recuperarla, si faceva toccare solo da me, per niente non si faceva toccare, no? No, ormai l'altro lo conosce tutti, quindi entra in casa e si fa degli altri, entra in casa e si fa il giretto e poi zona Monte Minuto, no? Dove modulavo da bancari più o meno, dai. Lì all'angolo, dove c'era il punto rosso, più giù, no? Proprio all'angolo della via, c'è una falegnameria. Non so nemmeno come si chiamano questi, è proprio una falegnameria. Una volta c'era, Michelangelo ho capito una volta, lì c'era, e poi c'è sempre lui, non lo so, o se l'ha lasciata ai figli, o se l'ha data ingestione, questo non lo so. C'era un certo capita lì, e già ho capito quello che stai dicendo, sì, sì. Però sono anni ormai che non l'ho più visto e non so cosa dirti, ma suppongo che sia lui, o perlomeno nel locale dove c'era lui. Hanno asfaltato da poco la strada, perché prima era proprio una mulattiera andare lì, dovevi andare piano piano, rischiavi di romperti pure le gomme. Adesso hanno asfaltato e un bijou, su alto mondo. E intanto si invita in campagna, e quindi cerco di parlare da lì. Però non lo pugno, non lo becco mai a casa, lo becco sempre o col portatile o in macchina, capito? Perché da casa probabilmente lui mi sente, gli altri no. No, aspetta, tu mi avevi sentito, vero? Anche Marina mi aveva sentito. Sì, io ti avevo sentito, sì, certo. Infatti c'era Marina anche, signore, eravamo insieme. In frequenza ce l'avamo insieme su quella, sul PMR, sì, ti ho sentito, e come anche. E vabbè, tu vai lì da Pagnato a Zia ogni tanto e fai la passeggiatina e già va bene, dai, già va bene a uscire. Vabbè, dai, io vi saluto, sono meno 10 quasi, è quasi l'ora della cena, per cui scendo giù da mia moglie, tanto adesso così vedo la mano anche a parecchiare, eccetera. Perché tanto qua si cena sempre intorno alle 8, 8 e 10 quasi. Ci sentiamo domani eventualmente, dai. Ciao Marco, ciao Toni, grazie per la chiacchieratina, a domani ci sentiamo. Ciao Franco, salutoni anche a te, grazie anche a te per la chiacchieratina, a domani se coincide, riprendi pure fra, io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Avanti Franco. Ok Giulio, alle prossime minuti, allora, buona serata anche a te e a tutto il cuore familiare, riprendi Marco. Ciao Giulio, dai, buona serata con tutto. E mi sa che ti danno io ormai, dai, quindi preparo il televisore per le 11. E ci sentiamo domani, dai. Ciao Franco, ciao Giulio, ciao Natalino che sarà ancora all'ascolto, poi. E ciao a tutti, dai, quelli all'ascolto, Claudio non è entrato, vabbè. Io dove rientri comunque poi da portare il cane, qui sta dalla fine in giorno fino alle 8:30 al limite qua, ti vuoi trattenere con Claudio? Io chiudo per ora, devo già passare. Ciao a tutti, buona serata. No, anch'io adesso qui, stavo stanco, devo fare una bella doccia, che stavamo tagliando legna stasera, stavamo dando una mano a mio suocero, adesso anch'io mi faccio una bella doccia e poi vedo un po' se ho voglia accendo, se no pazienza, dai. Vi salutate tutti, ok? Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao a entrambi. Ci sentiamo domani, ciao. Tutti andati via? Franco, ci sei? Franco? Franco?